d'avril, ribull del sole primaveril, di con l'amor la primavera, all'aura in raggio in mezzo ai fior, aleggia intorno il tuo respiro, e l'occhio tuo si chiude ancor, per l'auge lì nel canto palpita, son profondi i tuoi sospiri, con gel del calo di sangue giglie rose, sboccia insieme al suo passare. Con armi dolce il mondo stringe a te, forma eternale cede al potente acciar, e ai fieri tuoi colpi or cederete la porta fatal che un di noi separò, sì, dolce amor. Alla tua fratella, la tua da lui divisa forti un anello, la gelincopia volete al fin la mer, con la giornata di sole.